detto Gio Maria, Figaro, se ci sei, batti un colpo. Morta e crescenda, buongiorno. Attento squalo, squalo, cambio. Sì, signor Mari, e allora? Buonasera, attore, come andiamo, tutto ok? A te andemmo, piano piano. Ma sei scito oggi, no, con gare? No, c'ho mia nipote qua. Sono già uscito poi col cane. Ah, dunque hai fatto tutto, là, meglio gai, meglio così. Ma signor Bacchisio, non era inteso. Ehi, signor Bacchisio, dovrebbe entrare subito, dai. Dovrebbe entrare subito. Oh, e come te mai? Ehi, mi sa che se ne arrivete non entra adesso. No, già, oggi è domenica. Sarei prima la campagna, non preoccuparti. Già, ben freschito con questo vento, con quel vento di maestrale. Ma lui è al calduccio, osservate con la serra se è caldo. Già normale fuori, come fa? È sempre in movimento. Così è. Mette... Aspetta un attimino, Mari. E io sono qua, dai. E allora, Gianmari. Mari no. Dimmi tu. E allora, come ti va? Va bene. Come segnale, va bene questo, sì. A voglia, anche di radio. Questo va bene, come intendo va benissimo. Poi, come ho messo, già l'hai visto nella, che ti ho mandato su WhatsApp, con la pipetta le va, va bene. Oh. E quell'altro aperto ce l'ha? Sempre acceso l'altro. Oh. Io oggi c'ho il grande acceso. E c'ho anch'io il grande, è acceso, è sul 10 adesso. Non so se mi nascosto, ma già va bene, così dai, non scalda. Andava e andava. Registrato bene te l'hai? Sì, ho chiesto un controllo anche poca stasera, diciamo, va bene, va bene. E spolverando, stai toccando cosa l'altra e ogni tanto se va fuori, se va in tilt e poi si soffia, non vedo un citto. Così è. Io l'altro giorno me ne sono dimenticato, io non sapevo che stavi usando quello grande, se no te l'avevi detto come metterlo, la regolazione. Che c'aveva il pennello l'ha preso, mi riporto col pennellino, faccio più veloce, no? Ma poi mi riporto e dunque ieri l'ho vedevo, sono venuto uno saccetto e boh, non mi dai sicuramente, non me ne sono accorto. Era spostato con la fare di là. Sì, perché quelli vanno regolati a un certo limite, vanno regolati. Anche se no dopo esci male, esci. Me ne accorgo con il mio molte volte. E aspetta, lo spinotto staccato della del carica batteria. Un attimino. Ok, adesso è a posto. Secondo me lo tocchi si sposta, capito? La cosa accetta, me ne sono accorto. E adesso ti ha regolato bene, dai. Il tuo acceso? Sì, è acceso. Quando acceso questo accendo quello là anche. Io non accendo, ce l'ho tutto così scala, c'ho anche lo scanner sempre girando. Sempre inserito questo qua, già va bene, dai. Puoi andare in ghidda, a me non vi ho problemi. Naturalmente che l'affare mi hai dato per cosa da intendere, non si chiama, non mi ricordo il nome, comunque si è imbarrato subito, cioè. Sì, lo devo lasciare scaldare un pochino quello lì. Hai capito cosa stai dicendo? Sì, quello deve scaldare un pochino. Sì, lo so che scalda. Ti ricordo che l'affare mi hai dato per l'antenna? Per il mio cugino, non si chiama, il deviatore. Mi si è imbarrato, Ho capito, no, Mari. Avevo il deviatore per l'antenna con la ZG che tu mi hai dato. Si è... boh, non funziona più. Non so che cosa è successo. Ah, non ti funziona più. Lo dovresti aprire e guardarlo dentro. I contatti come sono messi. Sto pensando sia interruttore, sia partito interruttore. Forse quel temporale l'altro giorno mi ha crepato. Non hai c'ho il vizio di staccare tutto, c'ho il vizio. Sì, ci deve essere qualcuno in 27. C'è gente, vengo qua, c'è gente. Ma su quale canale sei tu? Sul 23 quello là. No, io sono sulla... aspetta. Adesso sono sul 23, ma non c'è nessuno sul 23. Adesso no, poco fa c'era uno che stava fischiando. Hai sentito, sì? Sì, ti ho risposto, ho detto che c'era uno che stava fischiando, a meno che non è a Gio Maria. No, sto chiamando ma non risponde. Aspetta un attimino che lo chiamo io. Ha chiamato, Otto? Non rispondi. Non vuol rispondere. Capì? Prova a fare un'altra chiamata. Buonasera, buonasera, eh. A attento, guffetta. Sta attenta, guffetta, guffettina. Vabbè, guffetta. Ehi, Marino. Buonasera anche a lei, guarda che c'è Tore sulle tre. Tore passa sul PNR. Lascio che no, Dio. Tu cosa? Non è posto nulla, Luca, buonasera. Sì, è rientrato Momò, là. Ero giù a pranzo a Porto Torre, c'è mio fratello. Hai macchina, sì, sei a casa? Sì, in macchina, alla 25. Ma a casa, non in macchina. A casa dalla 25. Ah, pensavo che eri in macchina, ok, dai. Guarda che c'è Tore, dai. Tore per Luca, cambio. Buonasera, Luca. Ehi, ciao, Tore, dai. Stavo ascoltando poco fa. Non c'è nessuno, manco Graziano c'è, boh. Sarà digerente ancora. Cos'hai detto? Ah, così, eh. Io ho già digerito, ho mangiato bene oggi, eh. Abbastanza. Anche i pulpi, siccome mio fratello è pescatore, ha fatto i pulpi e insalata, buona lì, dirani. Che è, noi insalata, vabbè, vai e prezzemolo, dai, peperoncino. Pensato lo stesso, pensato non è con le patate. Vabbè, insalata. Quindi io c'è mangia da crocco. Noi abbiamo portato la parte nostra. Andave, da. Non solo, pure i dossi. Oggi sì che ti sei svegliato allora. Guarda, giù una che c'è mia novità qua. Oh, tu sei normale. Graziano, che hanno mangiato la cedocetta, si era stata 3 miglia. C'era anche mia madre, diabetica. Quello che tanto vita. E dai si credi che è un gioco, è una brutta bestia il diabete. Per chi ce l'ha è una brutta bestia, ma poi lo dicono anche i medici. Infatti, è una brutta bestia una cosa del genere, che non mangia i dozzi. Dopo gli 10 minuti ti sta a stare il sellio. Ah, che tu sei bocchi d'ozzi, l'hai compreso? Io pure sono con bocchi d'ozzi, ma quando dico no è no. Lo so, ma ti so assaggiare. Purtroppo se c'è quel problema, non toccare nulla, lascia stare. Purtroppo sì. Purtroppo è così, Quando lo vuoi assaggiare, assaggi e buh. Lo so. Ora, cosa uscivo in saturazione poco fa, sto? Appena so, te lo stavi dicendo. Allora, da parecchio a parecchio cambia, perché poc'anzi stasera ero con un'altra persona, loro di fuori di qua, e mi sentiva benissimo. Io ho registrato e mi sentiva bene. Forse la radio cambia, non lo so io, la lontananza, boh. Sarà così. Andate. Avanti che vuoi entrare? Avanti? Non glielo vogliono, boh. E che così queste? Sì, no, se ne sa, se ne... Mari. Tutto non si può avere. Esatto. Tutto si può avere, ma... sto cambiando la frequenza qua. Oh, non c'è nessuno, c'è solo un canale occupato e basta. Se vuole entrare entra, se non vuole entrare se tocca il gallo cuso. Mandami da WhatsApp la foto come ce l'hai centralizzato tu e poi ti mando la mia io. Ho capito, no, mandami la foto come ce l'hai sintonizzato dalla di quello grande e poi ti mando il mio. La foto del grande come è messo? Microfono vero? L'ho visto Luca, l'ho visto, bello . Bello. Ti mando la foto mia adesso, va. Gianda, beh. Che cos'è? Carino, arrivato ti è? E chi è? Un attimino, mi si è sballato il cellulare. Si è imballato il cellulare, quindi non l'hai visto. No, già ho visto il tuo, sì, ti davano il mio, ma mi si è tutto imballato. Tutto un casino ti ha mandato, a sapere, si sta caricando che sono sotto e non prende bene. E comunque il mio è tutto al contrario, Lo sto mandando, lo vedi? Tutto al contrario, come tutto al contrario? Lo vedi, perché ognuno è, per me sono diversi, una radio diversa dall'altra, scusa, cambia il sistema. Adesso lo vedi che sta arrivando. Babbo! Ti è arrivato, Otto, no? No, non mi è arrivato nulla ancora. No, esco qua, esco fuori, te lo rimando, là. E sono sotto io, e... sono nel bunker, e non piglia nulla, zitta, là. Allora, da lì ci vuole parecchio a partire. Dove sei entrato, Mari? Poco fa, Gian Maria. Attenzione, Gian Maria! Mari! Ma è già mandata l'antenna, ma l'avevi già mandata. Adesso ti è arrivato, dai, ho visto che hai visto. Sì, è la stessa cosa come ce l'ho io, dai, cosa no? È quasi precisare un mio. Ma come è sistemato, no, dai. La... i pulsanti, no? È preciso al mio, è messo come ce l'ho io. Dai, è diverso, va bene, dai. Andate, Luca! Luca ha chiuso, dai. Ancora è presto, tu, ancora è presto. L'unica cosa è che tu ci hai attaccato il microfono da palmo. Invece io ho già attaccato il microfono da tavolo. 1060, sai? Sì. E io quello non ce l'ho. Lo stavo cercando. Vabbè, già lo trovo con calma. Sì, l'ho già avuto io, ma 70 euro. Ma avete internet o da qua state? Da fuori me lo sono fatto arrivare. Trovate in un sito e mi ha giubilato subito. Sì, vabbè, con calma. Adesso non mi interessa, dai, già andate così. E fine finse troppo. Bah, per due cazzate che diciamo dopo. Solo che tu c'hai un coso, l'autoparlante. Io quello non ce l'ho. Sì, guarda, quello lì però è del 4.30, capito? Quello lì mi aveva regalato l'anissimo, non valeva attore, mi aveva regalato. È del, sempre della Kevodo, del 4.30. Però non ce l'ho collegato a lui, l'ho collegato allo scanner, capito quello lì? Ah, è fatto bene allora. Lui ha ascolto col suo originale. Cioè il suo spinotto è collegato allo scanner, che mi viene meglio, capito? Sì, andava a vedere un Mattesi. Sì, a lui, andava a vedere. Pizza troppo, viene. E viene pizza troppo giù. Ma cosa ne vai da pure? Da pure non mi fai nulla, ma... che a me mi piace la roba. Ne ho altri due o tre vecchi di apparecchiature. C'ho il Texa Lafayette, che è vecchio. Poi c'ho apparecchio. C'ho lo Zodiac 50-36, che è lo stesso vecchio. Poi un altro qua sotto, così, il... aspetta, Somerkan, il TS-624, figurati, che è poco vecchio, sì. Sì, ve ne so apparecchi. Io di cosa che ti credi, Naggio 3 Naggio. Quindi, da quello dal 40 all'80 a quell'altro, al grande. Sì. Ma guarda, queste cose sono vecchie. E funziona ogni tanto l'accento, funziona abbastanza bene, capito? Abbastanza bene. Sì, anda, via, anda. Che cos'è la fotografia di che cosa è questo? Di Palazzo del Coso. Quale stai dicendo? Palazzo Ducale, cosa vi la vita? Ah, guarda, se ciò ce l'ho è sballato. Ogni volta mi mando qualche cosa, mi cancella la cosa, ti manda tutta la roba che ci ho segnata nella cartella, sì, è il 25 aprile sicuramente. Ah, quello del 25 aprile, andava. Sai che a me mi tocca andare ogni anno in chili, mi ha telefonato apposta, ci hanno preso, lo sai domani sei lì, e se c'è impegno ci vengono, hai capito? Ho preso, e vabbè, e ci abbiamo fatto pure quest'anno, là. E andava, anda. Andava, sì. Luca! Luca si ma niente, sul 20 c'è gente. C'è? Bobo! E cosa c'è? Cos'è che c'è Bobo? Luca! Non è per caso che c'è la febbre, no? Ma cosa fa? Sono stanco, sto. Sono stanco, ciao Mari! Bobo! Sì, andemmo ve, andemmo, che a te. Attenzione, signor Bacchisio. E tanto, tutti morti, ma c'è qualcuno in 27 anche. Va bene, è un'anima viva. Si intende nessuno, beh. Tutti morti sono, Graziano non risponde, beh. Gio Maria mangia la pasta al forno. Sì, mi sa che Graziano è in Chanté. Ah, così è. Sei sicuro? O è in giro? Fene, ho l'anno buttato, in campagna. E tu cosa sei venne? Gio Maria, hai dormito, sicuramente, boh. Gio Maria, a canturbare mi pare che sia in campagna. Ah, Ma se ne fare di rugacco ne fare. No, oh, sicuramente o è dalla figlia. Ma hai detto che mangiava la pasta al forno oggi. Ah boh, io li hanno ne so io. Ah boh. Attento, graziano, graziano, graziano. Chi è? Dove? Signor Bacchi, caspita, ma in campagna sì. No, sono muti muti solo qua, sono muti muti. Dove sei? Muti muti, sono SP60. Ah, paghi sei, che mi arrivi un po' garido basso. Piccolo e nero, piccolo e nero. A chi siete? Buonasera. Buonasera, dottor Marino, avanti. Proprio forte, va benissimo, va bene, da chi? Anda bene. Via, c'è Tone, Tone, vai per Marino. Ci siamo già sentiti noi, da che si è sentato. Ma facciamo cosa, Tone? Sono sempre vivente, gioco e no, che l'hanno preso. Ma che te tenendo? Non te tenendo nessuno, no? Non so, sono ascolto, facciamo cosa. A che punto sei, da chi? Quasi per arrivare in garage. Stai arrivando bene qua, vai tranquillo. Anda. 50 metri da garage. Ti vedo, ti vedo. Ma chi da lontano, si sta arrivando? Aspetta che metto la macchina dentro. Ciao lei. Ehi Maria, a chi ha? Allora, cosa c'hai? L'occhio lungo c'hai? L'occhio lungo. Aspetta Baffinello che andando in garage. Lo sto controllando tra i satellite. Tu hai il monitor collegato al satellite, lo controllo da lontano. Adesso sta entrando dentro il garage. Ma tira di te che è entrando dentro il garage. Ecco cos'è. Tanto sei volpino. Ehi, segui il filo. Piccolo e nero. Andiamo via, andiamo, catta. Mi ascolti in garage adesso sono. Adesso sono dentro il garage, mi ascolti? D'accordo bene, ma chi anda bene? Arrivi in voce, va. È meglio di prima. Forte e chiasso. Mia Luca, mia allora Luca, che dici? Forte e chiasso, arriva. Ciao Bacchiso, buonasera. Ciao Luca, buonasera, vi ascoltavo. E adesso spengo e mi faccio trasferita verso casa. Da dentro il garage vi lascio la macchina e vado a piedi. Riprendi Marino. A dopo. Benissimo Bacchiso, va bene, chiudi tutto. Ci sentiamo al QTH, avanti Torricino! Sì, sentiamo dopo, ok. Vai, signor Luca. A dopo, Bacchi, siamo qua, là. Se siamo ancora vivi, avanti, Marino. Beh, Luca, ti è arrivato tutto, sì. Ma hai cancellato un po' di roba, hai cancellato. C'è la roba che non interessavo. O sai come ho il telefono mezzo sballato, ogni volta che mando qualcosa mi cancella, ti manda tutta la cartella, sta roba che ho, capito? Comunque ti va bene quella roba, sì? A voglia. Guarda, sento, come ti ho scritto prima ce l'avevo pure io, bello, nuovo il mio era. Vabbè, ma poi vabbè, sai cosa ti dico? Prima c'era la cosa di averne, ma sono la fantasia, me ne è passata. Non serve più, perché non c'è più nessuno, Luca, non c'è, hai capito? Quella roba ce l'avevo vecchia, hai capito? Quando io abitavo al monte, ce l'avevo grande, l'ho venduto intanto per pensare tutto qua, era un caos. Ho preferito darlo, capito? E poi ho preso questa qua e ce l'avevo da tanto e ho attaccato tutto, ma basta così, non più nulla che non me la fusi nulla. Vero to? Sì, è vera via io buro, finalmente, vera via io buro. Poi mi ha venduto tutto canto, mi ha venduto. Perché se lo tieni fermo, portando si guasta, Se lo tieni fermo si rovina tutto, dunque ho preferito darlo. Tu figurati io al monte, c'avevo un'antenna, faceva da 27 a 45 metri, c'avevo 3 poli, insomma, avevo ben attrezzato su al monte. Poi ho preso, ho staccato tutto e così via. Noi siamo in campagna, avanti Luca. Buonasera a tutti. Ho capito, vabbè. Mi è rimasta la manto, faccio. Mi sento, mi vedo con lei, mi ha detto, Luca. Luca, ti stavi bene, non è nulla, non ti sento. No. pronto? Sera. Non stavo ascoltando, diciamo. Buonasera Marino. Solo QRM, solo QRM. No. Ciao, Tore c'è, Antu, avanti Tore. Lo senti Antonio? Sì che lo sento. Basso ma già lo sento. Ok, buonasera Antonio. Marino è che non ti ascolta. Non mi ascolta Marino. Ma io già lo sento. Deve essere nella posizione che lui non ti ascolta. Boh. Ascolti Mari. Se volevo leggere ma sentivo QRM, disturbi e basta, capito? Chi è Antonio di? Dov'è? Non lo saccio. Bombolo. Non ho capito, cosa hai detto Tony di? Antonio Bombolo. Ah, Bombolo. Ciao Bombolotto, hai sentito ora che non ti ascolto. Solo QRM ascolto, Antonio, avanti. Cappa, guarda se mi ascolti adesso. Adesso leggermente ti ho ascoltato, Antu. Perché sono in una posizione un po' negativa. Adesso tra un po' mi sposto, vorrei che mi sentirai meglio. E secondo come ti muovi, Antu, non ti ascolto, Se c'è il portatile, già lo sai, questa è una frequenza un po' strana. Secondo dove ti metti o come ti muovi, negativa. È negativo, non ti ascolto. Avanti Luca per Antonio. Sì, io ascolto io Antonio, cioè devo essere qua in zona. Come mai Antonio stavi più entrando? Non ti piace manco qua? No, io non ascolto nessuno non stavo più entrando Luca perché c'erano problemi e quindi non entravo più, hai capito? Ma dove sei? A casa. Ho capito. Ma io ti ascolto comunque, vabbè, siamo vicini. Vabbè, avanti Tore. Stavo parlando, stavo io non sento nulla. Tore. Adesso lo zio di Giuseppe, sì. Marino, mi ascolti? Luca. Eia. Sto dicendo a Marino, c'era lo zio di Giuseppe. Sera? Lo zio di Giuseppe. Oh, Marino, lo zio di Giuseppe, sì. Marino. Deve essere allontanato Marino. No, sono qua io a to, so che non sento nessuno, figurati. Sento quel remo ogni tanto e basta. Ma con Luca. Ma ti senti? Luca, secondo me si sposta io non lo sento. Poc'anzi lo sentivo bene, ma adesso nulla, solo quel remo. Luca deve rimanere fermo, se no io qua non arrivo. E io fermo sono. Sta al vento che magari gli sposta l'antenna a lui. Quando muove. E ecco, ti devi accunciare. Ega io, tu. Ma boh, non lo so, uno o l'altro ci deve accunciare. Io non sento nessuno. E ancora se mi sente. Adesso sì. Luca. Siete soprammodulati. Vabbè, non avete cane, va a vedere stasera. Beh, oh Marino. Non voglio, io a quei due non le sento, boh. Bombo poc'anzi entrare, lo sento leggermente, poi c'è QRM. Luca, secondo come si muove, non lo sento lo stesso. Bene, Nera, avanti Tore. Sì, certo. Luca! A parte se mi intendiamo. Ma mi senti adesso? Prova. Marino, mi senti? Prova. Guarda, in questo passaggio sei arrivato fortissimo, chiarissimo, avanti. Lo devo puntare praticamente, non verso la piazza, ma verso il muro, dall'altra parte praticamente, dalla parte, diciamo, della strada. Adesso mi senti? Adesso ti sento, ma sei sempre a livello QRM. Poc'anzi eri più chiaro, più forte, dai. È secondo la posizione che lo metti, capito? Anche la frequenza è un po' strana, Luca. È la frequenza, basta che ti sposti di un centimetro e è la frequenza strana. Però vorrei se mi senti adesso. Invece Antonio Bombolo non lo sento, poc'anzi l'ho sentito leggermente, poi è sparito. Antonio, mi ascolti? Sì che ti ascolto, mi senti adesso? Antonio. Eia. Deve essere che non ti ascolta, Antu. Mari, deve essere che non l'ascolti, deve essere nella posizione che non è buona per te. Si deve spostare leggermente come fa Luca. Se si sposa leggermente è probabile, poc'anzi l'ho sentito, basso non l'ho sentito, se no c'è molto QRM. ti devi spostare leggermente, Anto, prova a spostarti leggermente. Anche zonare. Forte di ottava, Sì, cazzo, allora. Però se vede la portante che le va forte, ma la modulazione è zero, to. Proprio zero. E guarda come si mi senti adesso. Anche adesso è arrivato forte, mezza modulazione, ma non si è capito nulla. Guarda a vedere, Mari, se adesso va bene. Adesso va leggermente bene, non molto, ma già va bene. Prova adesso. Ma sei tu molto negativo, Adesso ti ho sentito una bella modulazione. Cappa, stavo dicendo poco fa se sei lo zio di Giuseppe. No, lo zio di? Di Giuseppe. Esatto, no, già ci conosciamo, Antu, già ci conosciamo abbastanza bene, non abbiamo avuto mai l'occasione di salutarci, ma già ti conosco. Stavo dicendo, ma sul tabacco avete chiuso? Non ho capito. Via cos'era? Via Armano Diaz, dove c'è il negozio, chiuso avete? Sì, già una di che abbiamo serrato. Sì, non sono stato aggiornato, perché io passo col camion con sto tabaccano, il mio collega, se l'ha chiuso. E tu cosa stai facendo adesso, Antu? Sempre lì sono, ma non siamo più lì, siamo in via Milano. Sei arrivato a Svalzi, Antu? Ho detto che sono in via Milano. Arrivando a Svalzi, ma cosa stai usando? Portatile. Cappa, ho detto che sono in via Milano adesso. Adesso sei arrivato tu bello sparato, guarda. Non ce l'abbiamo più lì, hai capito? Ma siete in via Milano adesso, così è. Ma nel rifornitore, o no? No, più giù. Ho capito. Oh capretto, quando ti vedo ti fermo, andiamo a farci un bel caffè. Bene, adesso ti ho sentito abbastanza forte, Forte e chiaro. Avanti, Tore. Che aspetta. Con i portatili, sentire se sei vicino riesci a sentire, magari cominciassi un po' più lontano. Ciacchi ciacchi. Ci vorrebbe un piccolo antennino. Ah, il passaggio mi ha fatto adesso, l'ultimo passaggio è arrivato forte qua, qui ottavo, anzi, una bella modulazione, bella limpida, dunque va bene. Secondo, non ci vuole fare, secondo dove la posizione e dove si mette. È tutto qua. Avanti Luca. Chiappa, questo è tutto un in via Vespucci. Ma piglia bene. No, via Vespucci lo stavi dicendo, Anto? Mi sono dovuto mettere lì. Ma da casa tua sei sceso in via Vespucci, così è? Perché è l'unico punto dove riesco a modulare. Leggermente un po' di QRM adesso. Ma stavo utilizzando un portatile e sei sceso da casa tua a via Vespucci. Ho capito bene, Anto? Cappa, perché è l'unico punto dove riesco a modulare. Sì, non c'è manco di risposta, ti sei fermato, dai. È l'unico punto dove riesco a andare bene, La polizia non ci vuole fare, se non ti metti qualcosa. Comunque arrivi, la bella modulazione, bella pulita diciamo, là. Solo che secondo dove ti muovi qui non arrivi, solo quel rene arriva e basta. Vediamo se c'è Luca ancora, Luca negativo, avanti Tore. Luca si deve darsi assentato, o è andato a magna o si è assentato di tutto. Boh. Tu dovresti mettere un piccolo antennino appoggiato sulla finestra per aiutarti. Già lo so. Vabbè, dai, adesso vi lascio, sono qua. Ci sentiamo lì prossimamente, ok? Marco, ci hai fatto, se stai chiudendo. Registrato il break, buonasera, ciao, ben sentito alle prossime. Quando ti vedo vuol dire ti fermo, dai, mi ha fatto piacere, benissimo. Avanti il break, buonasera. Kappa, ciao bombolo, ce la sentiamo alla prossima se stai chiudendo. Ciao Marino, ciao Tore, ciao Luca e poi non so chi c'è. Salutoni alla ruota. Avanti Torre. Sì, ciao, grazie. Ma ora d'entrasso. Catta tutta la sera Luca della Zicheni. Catta era preoccupato. Ciao Antonio. Ma dove vedi, cuffetta? Boom. scapito mi hai? Dove eri, guffetta? Al computer ero. Stavo cercando una batteria che mi serve, però quella matricola non c'è. Domani guardo più calmo, va. Che batteria è? È una batteria ricaricabile, quante il dito indice. Ah, ho capito, vabbè. Pensavo che eri in campagna, ma mi hai dato più vento. No, c'è l'avvento, Luci, no. Era in casa tutta la vita. Tu non c'eri, a Porta Torre, sì. A casa di mio fratello ero, E infatti, l'hai detto ieri, che si è fatto la scorpacciata del pasta al forno. Capocollo, cos'era? Elettrico quella griglia che sta da Rossello. A gas. La griglia o è a gas o è elettrico? E funzionava. Di lusso. Ma è collaudata. Ma fa la fiamma al gas. Allora, fa la fiamma sotto e poi c'è la pietra vulcanica sotto. Capito? Ah, praticamente scalda la pietra, va. No. Praticamente come che metto qua, chissà casarura di ghisa, sopra la fiamma, ricade a ruschi, è una cosa del genere. Già ce l'ho la piastra di ghisa. Eia, va bene, riprendi tu Marino. Riprendo io lancio a Tore che mi rimango un attimino nel collegio e sto facendo cosa, là. Tore, prendila tu da Tore, dai. Marino, ci sentiamo dopo, dai. Andave. Graziano è che tutto canto del coso, che la dottora sera che ti scendero. Graziano no, che Graziano che dà. Boh, cosa sarà Fendi? Boh. Dormita era. Mi ho guardato un po' la TV e poi mi ha acceso il computer, stavo cercando la batteria, poi stavo guardando altre cose. Sì, tata giù. Luca sarà portatore, Dottore sarà in bicicletta, Johnny Maria sarà in campagna, Marino sarà drumito da Panzeracco, e Bacchigio in campagna in mezzo ai cavolafiori, ha detto non vi sarà nessuno. Sente, un'altra ora ti ha fatto Luca? Ha ragione, alla fine non si trova nessuno. Ma non verrami noi, certo non verrà nessuno, non verrami noi. Vabbè, dico prima, capito? Verso le 5, 5 e mezza, 6, così. Ma non verrami noi a regia. Magari Edu ha pensato che non verrà nessuno, capito? Oggi non l'ho accesa a vedere se c'era qualcuno. L'altro giorno l'ho lasciato acceso. E in effetti non verrà nessuno. Poi verso le 6, che era entrato, non mi ha messo. Era entrato, vabbè. E cani sportateli a dove? Oh, vanno giù uno, giuro. Adesso sei in campagna. Sempre in paese. Per il momento sì. A ottobre si vedrà se portaglielo su o no. Ma sul continente. Si dice non li vuole il continente, cari. Uno se ne deve buttare, però se deve cercare a casa con Iazzino. Ah, mia nipote che lì in Inghilterra l'ha trovata la casa col cortile, c'ha il giardino grandetto, tutto piantato, c'ha il gazebo, il barbecue, il cagnolino, però non è proprio al centro dove era prima, in periferia. E lei ce lo sta cercando lo stesso, in periferia, guarda che si è avvicinata allo travaglio. No, vicino non è vicino, perché deve prendere il pullman, andare dove lavora, là. Poi dal pullman si fa una camminatina a piedi e arriva subito. Veramente si chiama il bus. E vabbè, io mi chiamo Bulma. Però è grande anche la casa. È enorme. E c'è lei col suo ragazzo, con Vipolo, no? E lavorano tutti e due. Io lo so così, già lo so, grazie a troppo loro. Se lo sta cercando, piano piano. Quando la ciappa, ne dopo che si fa tenere tutto canto, mi hanno detto che se lo doveva regare sopra a Genova. Ma fuori, periferia lo trovi, là, non molto distante, ma già lo trova. Se cerca già lo trova. No, ne ha trovato un paio, però gli chiedono 6 mesi di coso, di gabbarra, di domanda. Ti facevi, no, 1 mese a mia nipote gli hanno chiesto. 1 mese come qua, qua te ne chiedono 1 mese. Che succede? Ma io pure di gabbo questa lì. Di no, un paio gli hanno mandato per 6 mesi. Ha detto, mia figlia ha fatto 6 mesi. Cioè 1 mese sì, ma 6 mesi sono troppi, non gliele dà nessuno così. Catta, 6 mesi sono bene di namme. Sì, no, ma per legge anche, la cauzione, un fondo e 1 mese. Che cazzo si dice? Chi se macca? È 1 mese che si paga, tutti ti fanno pagare 1 mese a fondo. Oh, grazie, che su vuoi pure, era te la Ruddennaru, ma buono mi? L'ho visto, infatti ti ho scritto che stava arrivando, non mi hai visto con il grembiule e la forchetta al coltello, non mi hai visto. E lui? E Cubarò, sicuro, avevo tanto bambilli. Già si vedeva che era mezzo caduto, mezzo fresco, già si veniva da un legame. Già l'ho visto già. Se non l'animo ridivi che sono l'animale, un polpo, in montagna non secchi, vero tu? E quello è pescato da scuola, pescato. Oh, signor Battisio, e allora? Rientrati, semmo. Andave. La pescata in montagna che su Boipu. Chi ce l'ha dentro la gara, a fiori di Bacchigio, che capo la fiori tipo uomo Pasqua. Vero Basi? Sì, buonasera Graziano, buonasera a tutti, a quelli che sono ascolti. Capo la fuori, non è chi capo la fiori, capo la fuori. Alza la voce che ti sei abbassato. Ho detto cavola furie. E a voi, una fava, andate, buona legge, vero lui? E lui? C'è un marino che fine ha fatto, grazie. Beh, mi sembra che ci aveva una cigalese e si è impegnato a surriscaldarla. Ah, capito, capito, impegnato. Andava in mezzo, avanti ancora, grazie, fa girare tu. Andiamo, dove andiamo? Perché sta uscendo un bel basso, aumenta la potenza, vero Tore? Da me arriva bene, poi da te non lo so. Signor Batti, Graziano Bulo di 20 anni stravagante stasera. Stravagante Graziano. Come mai Grazia mi senti basso, gli altri mi sentono alto? Non è il tuo baraccocco che sta facendo pazzie, no? No, adesso ho alzato il volume e vediamo quando parla Tore se è forte o basso. Se no devi alza e abbassa. Tore, vieni avanti a sentire la tua voce candida, candida. Senti, stasera è proprio arangoso d'olio, Vedi, Tore mi arriva più forte. Va bene, là, lo lasciamo così. Vediamo cosa sta facendo. Luca, avanti. Anche da me è un po' bassino, bacchissimo. Forse magari parla distante dalla radio, boh. E forse perché io parlo lontano dal micro, capito? Per quello è... Per quello che arrivo basso. Infatti, avvicinate al microfono, bacchi un po'. Schiacciato, ma questo è il suo, non l'ho trovato, questo ne ho trovato un altro. Boh, non riesco a capire dove ho messo il suo. Luca, io invece oggi ho fatto spaghetti, moraletti, mezzi succiosi col parmigiano grattugiato fresco, e a secondo ho fatto trippa con fagioli, quei fagioli grandi, quelli bianchi. Moraletti, dai, È vero. E la trippa, come si dice che mangia a butti spesse? E vedi adesso se mi ascolti di più bene o più male? Così vai benissimo! E questo è il portatile però con l'antennino suo, col gommino! Sì, perfetto! Chiaro, bello, lucido, lucido, vero tu? Limpido! Signor Bacchi, limpido si stasera! Aspetta che ti sistemo io tutti e due adesso! Ah sì, adesso vedo che è una punta, eccola qua. Adesso ne proviamo un'altra. Signor Bacchi, è Graziano che è un po' carino stravagante stasera. E cosa vuoi dire che sono bussotto? E la bella spagnata. Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee mai non sei rimasto a cena? Ciao, devo portare la mamma su. Grazie, guarda se ti piace adesso. Ah, dovevi, e perché non potevi arrivare a cena, mamma? Oh, ah, vabbè, l'insulina. Perché se la doveva portare a prezzo, io quando esco me la porto a prezzo. Cosa, Grazia? Che io quando esco non si sa mai che magari secondo se mi invitano mi dicono a rimanere a cenare, io me la porto a prezzo, l'insulina, con l'ago, oh, dentro un borsello, me la porto sempre a prezzo. Se so che poi magari rimango di là, di sera pure, no? Mamma fa solo la notte, là, quella per dormire, capito? Non, poi non ci rimane, Ah, io pensavo che si mi era capito. Vabbè, perché era rimasta, tanto le giornate sono più lunghe, ci faceva una passeggiata lì a faccia a mare. Ormai mamma si è abituata a mangiare e cucarsi, capito? Ormai è così. Pigliato, questa sabbigia purtroppo non la puoi cambiare. Quando ho detto ce ne andiamo, io se ne andiamo, non è proprio un dovere. Tutti questi sono i vecchi già. Sore, pure tu così fai. Io che ando a andare in Roma, che mi arrivo in Bastiglia. Magno, e poi mi dico a Bastiglia, e avete che arrivederci. E io lo stesso, me la porto sempre appresso, non si sa mai. Può capitare l'imprevisto, secondo dove vai. E se sei in casa e ti dici a rimanere a Sina, cosa vai? Se ce l'ho appresso rimango, ma per lo più me la porto sempre appresso. Anche per dire quando vado a farmi un giro al ghetto, me la porto appresso, a chi magari da prima sarò fresco. E di dire se andiamo alla trattoria o all'agriturismo o una pizzeria, capi? Mamma, ma ormai grazie a non c'è. Cioè, c'era a pranzo tanto quanto, prima me la portavo l'insulina appresso. Questa la portava e la faceva mia cognata. Adesso quella non la fa più. Però più sta andando più sta salendo questa glicemia. La pastiglia non la copre più. Però sempre 200, 230, 250, 285. Oh, signor Battisio. Ha cambiato la questione. Andava, a me andava. Ha cambiato l'antenna, ci ho messo l'antenna bianca. La bianca ci hai messo. A chi prima aveva? Quale ci avevi? Quella rossa? No, una piccolina. Una piccolina ne avevo prima. E ma la batteria l'ho messa a caricare, ragazzi, ce la sentiamo domani, là. Ciao circolari a tutti. Senta cos'è, troppo chiuso di Gerri Tirene, sta gira. Ma signora, a domani se coincide. Stammi bene, ciao ciao, dove le fai? Sì, grazie, ci sentiamo, ciao. Anda bene, riprendaci al bacchì. C'è anche Luca, Luca avanti. Ciao Guffetta, domani, ciao, buonanotte. Ciao a tutti. Allora, signor Tony, sei andato a passeggiare col cane? Ole! E io bacchì, io so che no, io ti so che accusenni. Senta, non sei uscito col cane stasera? Sì, alle 5 sono uscito con lui a passeggiare. Ma io ti vedo al garage 2, un buro. Alle 5 non c'era, sono salito, ti ho chiamato. Stavo salendo, facendo la booty booty, andavo e mi arrivavo in basso in certi strati, in certi passaggi eri bello pompante. Io ti arrivo basso io? La booty booty sì, in basso, in cielo però. Ah boh, dipende dalla posizione che ti metti tu. La direzione della macchina e non mi metto io sono sempre nella stessa direzione. Boh, io seguo sempre uno mattessi. Ecco, passa un attimino la 27, ce l'hai? Sì, ma è spenta, adesso l'accendo, aspetta un po', 5 minuti per scaldare un po', poi partiamo. Sì, perché c'è quello là, c'ho acceso, la stasera. E la marino, Sì, sentato va a travagliare, boh. Sì, andiamo dove andiamo, che te... Luca! Ubi! No, senza Ubi siamo, siamo bessi. Tutti fatta... A cosa l'avemmo? E arrivederci. A Russo. No. Fritte, fritte. Quasi mari, fritte, fritte, oh yeah. No, fazzi mari, lo fritto, fazzi mari. Sì, gira biglia e luce, lo fritto. Mo vado che da maniera, boh. Vabbè, io ne mangiavo spesso. Spesso e volentieri, adesso qualche anno non ne mangio. Sì, ogni tanto non fazzi nulla. Mangiali ogni tanto non fazzi nulla. Ma l'Africa ogni tanto già la mangio, sì, quello sì, catta. Avrei la forza. La biglia e luce, sì, mi fazzi mari. Ok, ho cambiato microfono, to. Adesso come va? Ah, bene, ma te sì. Anche poco fa ti ascoltavo bene. Con questo è più peggio? No, ma anzi, con questo è meglio. Questo è il suo. Quello, l'altro era quello di quello che si è bruciato. Ah, e cosa? Quello fisso stai usando? Sto usando il coso, come quello che c'hai tu. Anzi, ma questo è il coso. Ehi, anda bene bene allora, vediamo un po'. Il 27, cosa volevi fare il 27? Fa vedere che va giù chi c'è acceso, che domanda acceso. Adesso accendo, è acceso il mio adesso. Luca! Ehi, Atto! Il 27 c'hai lì? No, è tutto staccato, Atto. Come te mai? Perché tanto c'ho stazionare alte, non riesco a buttarle giù e poi non mi sente nessuno, cioè... No, scalda un bel apparecchio, per bruciarlo è meglio rimanga spento. Ah, così è. Perché dovresti buscare un bel antennino. Non è detto che c'è la vantova 5 nel tetto. E a casa della mamma, sì. Ah, dalla tua ragazza che non c'è. Allora, lì c'è una piccola antenna. Anche mettendo un'antenna di macchina, andavi. Ho messo anche l'antenna di macchina, ma c'ho sempre le stazionarie alte. Che dovresti metterla su una ringhiera, dovresti metterla. Messa, fatta le prove, noi siamo buttati giù le stazionarie sempre a tre. No, abbiamo bisogno che ci sia una buona massa nella ringhiera. E a voi la massa, tu, cavolo. Ma voi fissata bene, mia, che se no ti vaggi sempre in massa di vaggi. O è il cavo, boh. No, il cavo è buono. Allora c'è qualcosa che non funziona. Per darti stazionari a te vuol dire c'è qualcosa che non funziona bene. Può essere anche sotto dove attaccare la basetta. Ma se sia un capillare che tocchi se c'è stazionari. Cos'è, signor Bacchi? Io stavo dicendo, ma se sia un filetto fino sottile sottile che tu che il polo caldo si assorbe da stazionarie, magari non si vede neanche guardando così, bisogna controllarlo benissimo e vedere un po' dove attacca l'antenna sotto la basetta. Infatti, quello che gli stavo dicendo anch'io, Andrà bene me, raga. Va bene, va bene. Marino si è assentato, si è sfarfagliato oppure ha fatto il fumo? No, non lo so, si è assentato, ha detto 5 minuti, però. Questi 5 minuti, Marino! 5 minuti di Marino sono una giornata. Sicuro? Ed è così proprio. Passo a Bacchi, freddo vera in campagna. No, vento, to, vento è freddo. Vento è freddo, mi sono fuggito. Caspita, bobo. Tande così proprio. Stava bene dentro la serra, non si poteva manco ripirare. Minimo c'erano 35-40 gradi. Uiuia, andiamo bene, andiamo. Canno docca vento di maestrale, poi il tuo maestrale è freddo, sta gira. Ia, freddo è, freddo, freddo, proprio si è girato tra la busta. E con le scatole girate il maestrale stasera. Ne bascia una e ne viene un'altra, ga. Boh. Chissà che a maggio non sia più buono. Sì, cosa dico? Forse a chi su chi fu, tanto non puoi ciabbarlo per nulla. Comanda lui, Salvatore comanda. E cosa volere fare? No, è bello che c'è clima così, come stanno a rompere i catteri. Dice, sta arrivando la primavera. Ma è bello che andiamo a vendere inverno. Andiamo, ve, andiamo, vuvu. È così. È così, è così. Anche in te, mentre soffia, ci sono 20 anni sopra. Andiamo, andiamo, dai, dai. Chissà che mi lascia le antenne, le sta sbattendo da una parte all'altra, ca. Porca miseria. Aspetta, bubu, gnagacu. Allora, quando è che ti fai vedere, che ti faccio vedere una mia lavorazione? Entro in settimana, magari. Entro in settimana, ci sentiamo. Io so, ti faccio vedere qualcosa di nuovo. Sempre impasticciando. Caspita. Sono impasticciando, ma... Allora, cominciando a mullare questa cosa. L'avevo mullata, l'ho ripresa. Ci passi l'ora, so. Una chiacchiera con te, una chiacchiera con Luca, mica... Ci passa l'ora. Infatti. Quella mezz'oretta in più che ci abbiamo ogni gira, boh. Sì, una barzelletta uno, una barzelletta l'altro, e passiamo l'ora. Avanti lui, ci sei ancora. E a sempre, sono qua. È qua. Sta mangiando sole, Luca. Via da Edo. Io invece devo accettarmi che venga mia figliura. Non è partita tua figlia? Sì, quella è già partita, è già a Londra. Poi ci arrivi dalle 4 di Manzano. Qual è partita? L'altra che c'ho a mio nipote qua. Guarda adesso se ho migliorato o peggiorato. Ma la voce ti si è avvicinato di più il microfono. Ha migliorato. No, come segnale, ha migliorato o peggiorato? Per me è sempre un matese sui segnali. Questa è più moderna. Sempre a fondo scala però sì da me. Sempre a fondo scala però. Questa è l'ultima invenzione che hanno fatto in Italia. Qua a Sassari magari. No, si dice, questa è l'ultima invenzione italiana. E bisogna provarla. Provarla e vederla. Infatti, prova. Provando. Ci fa tutto. Sai com'è quel tipo che abita lì? Casi sempre in particelli, sempre in vendita, rimontendo, ripiazzando. E sempre qualcosa esce fuori. Andava allora. Fermo così. Ehi, adesso lo scanner non si può più riparare. Metto a metterlo a soprammobile sul comodino. Non si può più riparare, perché è partito che cosa? Sono partiti i condensatori, i condensatori si è mangiato la pista. Certo. Dalle saldature o dal coso? Non lo so, lo devo riaprire, voglio vedere un po', guardatelo. Sono le piste mangiate. Se non è che trovi una basetta di quel coso, di quelle sciori lì, però dice ti costa più la basetta che la radio. Infatti, se è una cosa del genere, sì. Costa più la basetta che la radio. Ma infatti metto questo DG1000, lo trovi a poco prezzo adesso. E io dunque sono nelle 85, 86, che avevo il quadro 40, allora c'era la fiera Olbia, siccome venivano sempre qua a controllare le scoposte ogni volta qui a Murica e fa, preso e me l'ho venduto e l'ho dato a Giovanni, quello della IL elettronica. Ma ha detto, ti mando un bel ricevitore, è la fine del mondo, e mi ha rivisto il giocattolo. Così era, e allora era così. Un giocattolo, e mi è costato 2.800 euro. 2.800.000 lire. Così un bel costava. Ma c'era uno scanner. No, io gli ho dato il 4.40, l'ho pagato 2.800.000. Vai a comprarne una va. Adesso vai a mio cugino con 50-60 euro, usato lo trovi. Lo scanner? Scanner, questo scanner qua. Ma da di tu 50-60 euro? Sì, il massimo per spendere 100 euro, al massimo mi ho detto. Questo è un quadribanda, fatto da zero all'infinito. E lì è un DG1000. Sì, sa che forse me lo compareggio io pure uno scanner, però che abbia un po' di frequenze. Chiaro, ce n'è uno bello, se vuoi proprio averlo, della keyboard, un quadribanda, c'ha tutto. Con 1000 euro tenisci. Mi dammi lì. Non me ne faccio dove, che si costa troppo. Ma c'hai tutto però. Tutto. Ricevi e trasmetti. 1000 euro. Scontato. Oh, certo. Aita mi ha mandato un messaggio, Luca. Che messaggio, dici? Registrato, signor Bacchi. Luca, registrato. Tore, mi senti? Cos'hai detto, Tore, cosa hai detto? Bacchisio. Ehi, avanti. Tore sta guardando un video. Il video gli ha mandato tu. Cosa gli ha mandato di bello? Un'antenna che ho fatto così, buttando così il tempo. Un pezzo di virus, un'antenna, un pezzo di virus. Che ti schiaccia questo filo, mio amico? Bacchi, un pezzo di virus attaccato a un muro, Fallo tu. Se funziona, l'importanza è che funzioni il tore, si è attaccato al muro, si è attaccato alla Ianna, l'antenna è. Sì, funziona che in alto, Edu, se è stato in basso, ma per me non funziona. No, se in basso funziona lo stesso, capio. Quanto è alta lui? Sarà 60 centimetri. Buono. Sono 70 centimetri, ti va bene quasi per la macchina. Come quello che ho fatto io, 50 centimetri va giù io. Quanto c'hai alto tu, lo stilo? Quello che ho io è 50 centimetri lo stilo, per la macchina. Ah, capito. Hai visto quello della macchina mia, quanto è alto? Vabbè, per la tua andava liscio e per la mia andava liscio che va giù. 20 centimetri di antenna. Quanto l'hai? Comunque Luca, ti abbiamo fregato, Davvero? Sì, davvero, E in che senso? Ce l'avremmo fatto per la macchina. A me Ma mi sei fatto da 50, sia per la 27 che per il PMR, 50 centimetri. Anche un pezzo di ringhiera funziona, bisogna avere i gomenti però. Sì, sai come te la pulimmo? La pulimmo di traverso. Dove piglia il polio in macchina, fatti la vada Luca, polio in macchina. L'attacchi da un sedile all'altro. Sì, adesso me la do però quando scendo a accompagnare mio nipote ai campi. Ma non tu scendi da tuo nipote, non ne puoi mai, non ti avevo intesi io, boh. E vado via alle 6:20 dai campi io, quindi. Ah, dunque, non ti scrivo perché non sono ancora partito a riprendere la campagna. Cosa ovvero? Ma guarda te, non è la mia, Eia, a te il lupo. È vero. Dov'è? Mascherato. Mascherato. Lu, ma ti sei mascherato oggi? Sego il culo. Oh, Lu. Ok. Ehi, mi senti, Lu? Sono dentro casa. Sì, non ti sei mascherato oggi? Eia, alla Zorro. Che è l'offerta lì del palazzo? Ehi, hanno fatto anche le frittelle qua nel palazzo. È vero. Quello tu usai? Certo. Comunque hai detto, questo è un pezzo di filo, funziona, Lu, già funziona. Adesso comunque la passa inizia a fare l'antenna. Luca, ci sentiamo alle prossime, ok, ciao. Ciao Tore. Buonanotte, a buona cena. Attento, Gio' Maria. Eccomi qua, buonasera, buonasera. E buonasera lì, allora. Si tira avanti guardando la televisione e ascoltando in questo aggeggio. No, noi eravamo sul 10, Gio' Maria, già lo sai che facciamo una rotta così, un po' viziata. A me piace ascoltare, a parlarci non è tanto facile, non va più, sì. Non mi fa più a parlarci, sia di uno che l'altro, qualche volta così, ma mi stanco subito e chiudo subito, forse la vecchiaia. Vabbè, l'importante è andare avanti. E così, no, noi ogni tanto di qualche prova, ogni tanto mi viene voglia di provare qualche baracchino, allora sto sempre cambiando antenna da una parte all'altra, poi adesso ho convinto anche un po' Antonio Riserva, quando è qua in zona, ad attaccare anche lui, e adesso si è preso un veicolare anche lui, e così, quattro chiacchiere, dai. Sì, mi ascolti, sento anche qualche volta, passo e vi sento sul 10, là. Ma ripeto, mi piace ascoltare, però non entrare, non lo so, qualche volta mi entro qua, ma insomma, poche volte, non è più come prima, ecco. Sono anche stanco, diciamo la verità, e allora mi stanco subito e per forza devo chiudere oppure ascolto senza entrare, capito? Ascolto e basta. Vabbè. Senti un po', Giovanni, non è che hai per caso qualcosa da... qualche rosmetro vattimetro da vendere per caso, che non utilizzi? Ma di che cosa però, per giù? Tipo quelli ad ago incrociati o un rosmetro vattimetro. Ne ho uno della Diamondi, 200, ma se interessa e ti interessa, ma già lo sai quanto costano quelli lì? No, non ce l'ho presente, vabbè, al limite mi mandi la foto e mi dici quanto ne vuoi, poi vediamo se lo prendo, se no pazienza. E a te la mando la foto, vai. Stasera le faccio la foto e te la mando, vai. Più tardi, non adesso però, Senza impegno, Gio' Maria, non c'è problema, tanto è una cosa che devo utilizzare, ma non so neanche se tenerlo, cioè, non lo so se... devo vedere due cose qua, se ci sono stazionari, quanto vanno di watt, e poi vediamo, dai, se ne vale la pena lo compro, se no non mi interessa proprio comprarlo, capito? Ok, vabbè. Dunque, guardatelo pure sul computer quanto costa, lo viene a costare, magari ti renderai conto, magari quello che dico io dopo, capito? Così, ma non li sto usando. Mi piace averlo, però se trovo il curente che mi soddisfa lo do, capito? Certo che sì, non è che deve accontentare entrambe le parti, se no non fa, capito? Va bene, lo sai, se la cosa è, poi già lo so come la tieni tu, quindi è nuova e sono sicuro dove devo andare a prendere se decido di comprare. Fammelo vedere, non lo so, lo devo vedere Giovanni, poi vediamo, dai, ne parliamo. D'accordo, tia. Mi farò la foto e te la manderò senz'altro. Ok, ti dai, che mi sto guardando la TV. Ti sentiamo, saluto Riccardo e saluta quella persona che da tanto non lo vedo. Boh, prima lo vedo. Oh, vabbè che sto uscendo poco. Ma deve essere che sta uscendo poco anche lui, così è. Ma che mi sei andato 10 minuti fa da qua, perché lui quando sono belle giornate scende qua la domenica, fa tappa qua e poi va a dormire a casa sua, dai. Sì, non mancherò, Giovanni, te lo saluto volentieri, figurati. Ok, d'accordo. Oggi saluto ancora, dai, ci sentiamo. Ciao. Ehi, saluta la signora. Ciao, ci sentiamo. Oh, boh.